Lo dicono Melis, Canavina, Termes, Olivieri, Rolla. E allora andiamo a leggere la deposizione di Paolo Termes, ufficiale dell'Accademia Navale. Non ho mai avuto la sensazione che vi fosse nebbia. E ancora Roger Olivieri, anche lui all'epoca ufficiale presso l'Accademia. Non ho assolutamente visto nebbia in mare quella sera. Dunque, molti testimoni dicono che quella sera, nella rada di Livorno, la nebbia non c'era. E lo confermano anche i primi soccorritori usciti in mare verso l'Agip Abruzzo, ormai in fiamme. Ma quella sera, alla fonda, nella rada di Livorno, c'è anche un'altra petroliera gemella dell'Agip Abruzzo, l'Agip Napoli. Questa è la registrazione della conversazione radio tra il comandante della nave Cannavina e la capitaneria di porto di Livorno. La collisione tra Moby Prince e Agip Abruzzo è avvenuta da pochissimi minuti. Ma evidentemente non avete ancora capito la gravità della situazione, eh? Perché oggi sono 1.500.000 e sto vedendo quello che succede lì, La nave è tutta a fuoco. Il comandante Cannavina dunque è ancorato a 1.500.000 di distanza e riesce a vedere benissimo l'Agip Abruzzo in fiamme, che però copre alla sua vista la Moby Prince, anch'essa già in fiamme. Dal tono delle sue parole si capisce benissimo che, nonostante la distanza, Cannavina è perfettamente in grado di valutare la gravità della situazione. Eppure, secondo la sentenza, anche lui è tra quanti sosterrebbero che la nebbia c'era. In realtà c'è una testimonianza che ci permette di dire la parola definitiva su questo aspetto. A parlare è il comandante della stessa Agip Abruzzo, Renato Superina, alle ore 22:30 minuti e 10 secondi sul canale 16. Il comandante Superina chiede aiuto via radio. La collisione con la Moby Prince è appena avvenuto. A rispondergli è la capitaneria di porto di Viareggio. Vi trovate voi che chiamate incendi a bordo, qui a Compamare Viareggio, cambio. Irata a Livorno, irata a Livorno! Livorno ci vede con gli occhi! Livorno ci vede! Grida il marconista dell'Agip Abruzzo. È chiaro che non c'è nebbia e per di più aggiunge. Agip Abruzzo, incendi a bordo, basta che uscite fuori, vedete le fiamme! Uscite fuori e ci vedete! Più chiaro di così, ma c'è una prova che elimina qualsiasi dubbio. La mostra il TG1 tre giorni dopo la collisione. Colleghiamoci ora con Firenze, dove il collega Mammoliti dovrebbe farci ascoltare un documento registrato da un radioamatore al momento della tragedia. La qualità della ripresa è scadente, ma una cosa è chiara: dal riflesso luminoso delle fiamme sulla superficie del mare si capisce che tra la petroliera incendiata e l'operatore dilettante non c'è nebbia. E infatti così conclude anche il giornalista Rai. Intanto una cosa è ben chiara, non c'era nebbia al momento dell'incidente. Ma allora, se già due giorni dopo la tragedia sembra ovvio a tutti che non c'era nessuna nebbia, perché? Perché le indagini prima e la sentenza poi cercano la nebbia ad ogni costo. Perché? E la nebbia serve a spiegare la collisione, attorno alla nebbia ruota tutto, ma non regge assolutamente questa spiegazione. Tutte le navi sono dotate di radar a bordo e ne aveva ben tre a bordo installati il Moby Prince di radar, e uno era acceso, perfettamente funzionante, anche se i periti del pubblico ministero arrivano a una conclusione curiosa. Dicono che c'era nebbia e che probabilmente però dalla plancia del traghetto non si seguiva il monitor del radar. E siamo dunque a un'altra ipotesi: la nebbia c'era, il radar era acceso, ma nessuno lo controllava. E del resto tutti i membri dell'equipaggio della Moby Prince sono morti, dunque nessuno può confermare o smentire. Ma intanto chi era Ugo Chessa, il comandante della Moby Prince, che con la nebbia ha il radar acceso e non lo guarda? Chessa era universalmente riconosciuto come il miglior ufficiale della flotta onorato. D'Ambrosio, udienza citata pagina 16 e 21. Era considerato il miglior comandante come serietà e severità. Era il più professionista, il più serio, più severo e più preparato. L'Angella, udienza 19-12-95, pagina 61. Insomma, un comandante di grandissima esperienza, severissimo e serissimo. Un comandante che però, secondo la sentenza, quella notte avrebbe guidato la sua nave, la Moby Prince, in una rada affollatissima, coperta dalla nebbia, con il radar acceso, ma senza neppure dargli un'occhiata. Ma com'è possibile che sia andato davvero così. Questa è la risposta che dà la sentenza. Con verosimiglianza si può imputare al comandante del Moby Prince l'imprudenza della persona esperta, non l'inesperienza. Ma è stato certamente ingannato dalla forma del tutto inusuale in cui si presentava il fenomeno nebbioso che, come più volte è stato ricordato, interessava la petroliera ma lasciava discretamente visibile il resto della rada. Questa circostanza può spiegare anche il mancato ricorso al radar, che con tutta probabilità era acceso e in funzione. Al radar si ricorreva principalmente in caso di nebbia e quella sera la nebbia era difficilmente avvertibile. Dunque il comandante sbaglia non per inesperienza ma per imprudenza del troppo esperto e il radar, che non era spento, che se fosse stato spento avrebbe spiegato la causa della collisione, il radar no, era proprio acceso e in funzione. Ma nessuno lo guarda perché il radar lo si guarda se c'è la nebbia e la nebbia quella sera era pressoché invisibile. A questo punto è proprio la logica a non tornare. Insomma, una sfida al più elementare buonsenso. E allora per provare a capirne di più dobbiamo proprio ripartire da cosa stava accadendo quella sera nella rada di Livorno. E il punto di partenza della nostra inchiesta possono essere due documenti. Da una parte il brogliaccio dell'avvisatore marittimo, quasi un'istantanea, che fotografa la situazione nella rada di Livorno alle ore 22 di mercoledì 10 aprile 1991, dall'altra una lettera intestata Dipartimento della Difesa, Comando Traffico Militare, Terminal, Battaglione Italia. A chi di competenza? Si notifica che le sottoindicate navi trasportano materiale di proprietà del governo degli Stati Uniti d'America destinato alla base USA-NATO di Camp Darby, Tombolo, Pisa. Le navi sono sotto il diretto controllo del Dipartimento di Difesa USA, militarizzate, pertanto esenti da qualsiasi tassa o visita di controllo a bordo. Cape Breton, bandiera USA, FDIM Junior, greca, Gallant 2, panamense. Distinti saluti. La data è del 15 marzo 1991. La presenza di queste navi si spiega con Camp Darby. Camp Darby è un'enorme base militare USA-NATO alle porte di Livorno. Facendo una ricerca risulta che queste navi sono state utilizzate nella prima guerra del Golfo. Col racconto del disastro della Moby Prince riprendiamo dopo la viabilità. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it col TH. Vi presenta... Ascolto Gianluca perché sono socievole ma non sono social. Perché a Grosseto Radio 24 si sente bene. Perché quando corro vorrei essere un gabbiano. Ascolto Gianluca perché ci devo pensare. Perché mentre rifaccio il letto mi chiedo se anch'io sono tutta da rifare. Ascolto Gianluca perché quando mi lavo i denti penso alla mia vita. Devo mangiare di meno. Melog. Ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. Mix 24, i gialli della storia. Bentornati all'ascolto di Mix 24. Oggi stiamo raccontando il terribile incidente che ha coinvolto la Moby Prince e che ha fatto 140 morti. Stiamo leggendo il brogliaccio dell'avvisatore marittimo dove si vede che nel porto di Livorno, quella sera, sono presenti una serie di navi militarizzate. Dunque, dal brogliaccio vediamo che effettivamente la sera del 9 aprile le tre navi militarizzate americane con il loro carico pericoloso sono tranquillamente ancorate davanti a Livorno. Ma scorrendo il brogliaccio troviamo altri nomi. Facciamo un controllo e vediamo che almeno altre quattro sono le navi presenti in rada a Livorno legate ai trasporti dell'esercito americano. La Cape Siros, la Cape Flattery, la Cape Farewell, la Margaret Likes. Anzi, una di queste, benché di notte siano state vietate movimentazioni pericolose, viene vista da un testimone in operazioni di scarico. Capitano della Guardia di Finanza Cesare Gentile, udienza del 15 maggio 1996. C'era una giornata chiarissima. Io ho constatato la posizione delle varie navi in rada. Ho visto al nord una barca che imbarcava le armi. A nord c'era una nave grossa illuminata, che era quella che stava facendo il carico delle armi. Vicino a Livorno, a Camp Darby, c'è una delle più grandi basi militari della NATO in Italia. Non c'è nulla di strano dunque nel fatto che delle navi militarizzate americane incrocino nella rada di Livorno. Quello che è strano è che nessuno aveva mai detto prima della testimonianza di Cesare Gentili, capitano della Guardia di Finanza, è che almeno una di queste navi caricasse e scaricasse armi ed esplosivi provenienti dalla guerra del Golfo di notte a due passi dalla rotta dei traghetti di linea. Tutto questo il capitano Gentile lo aveva regolarmente riferito nel suo rapporto proprio l'11 aprile, il giorno dopo la tragedia della Moby Prince. Eppure durante l'inchiesta nessuno interrogherà mai il capitano Gentile. Ma quella notte in rada non c'erano solo navi americane. A scorrere l'elenco delle navi presenti nel porto di Livorno quella sera del 10 aprile si fa un'altra scoperta. Il nome è 21 October 2. La nave non è di quelle che passano inosservate, o forse sì, almeno allora. Perché nel 1991 la 21 October 2 risultava essere soltanto un peschereccio, una nave frigorifero, ammiraglia di una piccola flotta di pescherecci donati dalla cooperazione italiana alla Somalia per aiutarla nel commercio ed esportazione di pesce. Il pesce era quello pescato in acque somale che la 21 October 2 doveva scaricare nel porto di Gaeta, ma a Gaeta la nave si vede raramente. E controllando gli spostamenti del 21 October 2 attraverso il registro dei Lloyd's di Londra, si vede che i porti toccati dalla 21 October hanno poco a che vedere con il commercio di pesce. Tripoli in Libano, Beirut, Irlanda, Iran. Uno dei porti preferiti era Livorno, dove spesso la 21 October rimane per mesi. Spiegazione ufficiale, riparazioni. Quando tre anni dopo, nel 94, in piena guerra somala, la giornalista Ilaria Alpi va a curiosare sulle attività di questa flottiglia, sospettando un traffico di armi all'indomani di un'intervista al sultano di Bosaso, che aveva appena sequestrata una delle navi, la Alpi e l'operatore Rovatin vengono massacrati a bordo di una jeep in pieno centro di Mogadiscio. Insomma, la 21 October 2, che dopo la morte di Ilaria Alpi entrerà nelle inchieste della magistratura e della commissione parlamentare sulla cooperazione, era nel porto di Livorno, la sera del 10 aprile 91, ufficialmente per riparazioni. Ma una bettolina, forse quella che qualcuno accuserà di aver tagliato la sera della collisione la rotta al Moby. Questa bettolina era una bettolina che ha provocato il danno. Invece in quel momento era a porto, tranquillo. Stava facendo rifornimento, aveva finito il bunker a questa nave qua. La 21 ottobre, sì. Perché una nave in riparazione avrebbe bisogno di fare carburante? Tanto più che il molo non operativo a cui ufficialmente la 21 ottobre era attraccata la sera del 10, la sera della collisione, un testimone lo vede vuoto. Dunque, secondo un testimone, quella nave, la 21 ottobre, che doveva essere al molo in attesa di riparazione, aveva fatto carburante ed era in navigazione nella rada. L'ennesima stranezza di una notte piena di misteri e siamo alle 22 circa. La Moby sta per lasciare la banchina del porto di Livorno. Livorno, porto, sono le 22. È una limpida sera di aprile. Moby Prince ha appena caricato 76 passeggeri, alcune auto e qualche camion. In plancia, oltre al comandante Chessa, sono presenti il secondo ufficiale, il timoniere e il pilota di porto, comandante Sgherri. Alle 22.03 il comandante Ugo Chessa ordina di mollare gli ormeggi. Destinazione Olbia, Sardegna. 22.10, finisce la manovra di uscita e il pilota di porto scende dal traghetto. E sempre alle 22.14 è l'avvisatore marittimo a vedersi sfilare davanti Moby in uscita. Siamo a 5 minuti dalla collisione. Il traghetto è appena uscito dal porto. A nord ci sono un gruppo di navi, tra cui alcune militarizzate americane. Moby Prince deve percorrere un cono di divieto d'ancoraggio, andare verso il largo e poi verso la Sardegna. Le navi che deve controllare sono quelle ancorate a sud, la petroliera Agip Napoli, due navi militarizzate americane e l'Agip Abruzzo. Ma proprio sulla posizione dell'Agip Abruzzo ci saranno una serie di contraddizioni. Cerchiamo la posizione assunta dalla sentenza. È questa, 43 gradi, 29 e 60 primi. E 10 gradi, 15 e 90 primi. Sono le coordinate geografiche. La posizione, dice la sentenza, è quella rilevata il 12 aprile dalla nave militare italiana Libra, ovvero due giorni dopo la collisione. Perché viene presa la posizione di due giorni dopo? Ma l'Agip Abruzzo non si era spostata. Dal verbale dell'ingegnere di macchina Pompiglio, che così descrive gli attimi dopo la collisione. Abbiamo attivato il motore principale. Pochi istanti dopo il comandante ha chiesto se la nave era pronta a muovere. Ho subito confermato. Dopo qualche istante è stato avviato motore avanti. La prima volta con moto avanti per 10 minuti. La seconda non saprei dire. L'ingegnere di macchina dell'Agip Abruzzo dunque dichiara che dopo l'impatto con la Moby Prince la petroliera si è spostata.

Ora nulla più si potrà ricostruire della petroliera se non con i ricordi personali di chi era a bordo. E primo fra tutti il comandante della petroliera, Renato Superina. Leggiamo dalla sua deposizione del 13 aprile 91, due giorni dopo la collisione. Nessuno si era accorto dell'avvicinamento del traghetto perché il radar non era acceso. Il radar non era acceso, dice Superina. Eppure, tra i materiali filmati, in archivio abbiamo trovato un frammento di intervista allo stesso Superina, la notte della collisione, appena sceso sul molo. Il terzo aveva già il radar in funzione, tutto quanto, ha visto che sta nave veniva addosso. E poi all'ultimo momento, cioè, pensava che accostasse, insomma. Le parole del comandante Superina non lasciano adito a dubbio. Il terzo ufficiale in comando dell'AGIP Abruzzo aveva il radar acceso e ha visto la Moby Prince avvicinarsi in rotta di collisione. Ma questo che avete appena sentito tratta da un'intervista che Superina ha realizzato per una emittente locale toscana, Telegranducato, è l'unica dichiarazione in cui il comandante dell'AGIP Abruzzo ammetterà che il radar era acceso. E infatti il terzo ufficiale della petroliera è stato ritenuto colpevole di aver tenuto spento il radar a dispetto di quella strana, imprevedibile nebbia che avvolgeva l'AGIP Abruzzo. E il reato è andato prescritto. Quanto a Superina, la sua posizione è stata archiviata già nel corso delle indagini. Ma torniamo allora a quella sera del 10 aprile a bordo della Moby Prince. Sono le 22:23 minuti e 14 secondi. Mancano due minuti alla collisione. La voce del radiotelegrafista di Moby riappare su canale 16. Particolare importante. Nessuno di chi lascia traccia della sua voce sul canale 16 sapeva quella sera di essere registrato. Normalmente il canale 16 non viene registrato, ma alla stazione Livorno Radio era in corso un progetto sperimentale. Oh, Moby Prince da Livorno, proviamo canale 61, ma ti sento debolissimo, eh? Questa è l'ultima comunicazione di Moby prima della collisione. Il segnale radio è debolissimo, la modulazione quasi zero. Cosa succede alla radio di Moby? Altro particolare. Il corpo del marconista di Moby non verrà trovato in sala radio. Ovvero, non era al suo posto al momento della collisione, altrimenti il suo cadavere sarebbe stato trovato schiacciato sotto il mobile radio crollato per la collisione. Dov'era andato l'ufficiale RT? Perché si era allontanato dal suo posto? E questo allontanarsi era legato alla radio non funzionante? Subito prima della collisione sulla Moby Prince, dunque, stava accadendo qualcosa di molto strano e la prova è in quei cadaveri carbonizzati rinvenuti a bordo del traghetto. Nessuno dalle analisi necroscopiche presenta fratture o traumi conseguenti a un evento traumatico, a una collisione. Quasi come se tutte le persone a bordo, in qualunque zona si trovassero, fossero, come dire, pronte e preparate all'impatto, che è stato fortissimo, è stato drammatico, ma non ha procurato ferite alle persone in quel momento. Secondo elemento, quasi tutti i corpi dei passeggeri e dell'equipaggio vengono rinvenuti, circa un centinaio, all'interno del salone di prua, il salone deluxe. Significa che erano state dirottate lì, in quel salone, messe in sicurezza, trovate tutti con i propri bagagli, perfettamente vestiti, con i giubbotti salvagente. Un altro elemento è che appunto nessuno viene rinvenuto nel salone bar di prua, dove comprovato c'era molta gente in partenza durante i primi minuti di navigazione che guardava la partita di calcio, la famosa partita di Coppa Juventus-Barcellona. Anche quel salone è vuoto, quindi c'è, come dire, una situazione di raduno dei passeggeri e dell'equipaggio all'interno del salone che precede la collisione successiva con la petroliera. Torniamo al marconista che si allontana dalla sala radio. Dove va? Va in plancia, sul ponte comando, accanto al comandante. Infatti le procedure in caso di allarme sulla nave prevedono che il marconista si precipiti dal comandante per ricevere ordini diretti. La prova, il Mayday del Moby, ovvero la richiesta d'aiuto, viene lanciata dal VHF portatile della plancia. Moby Prince, Moby Prince. Dunque da bordo della Moby Prince non si riesce a comunicare né con la radio di bordo né con il VHF portatile. Ma perché le radio non riescono a comunicare è perché il radar della Moby Prince, che era acceso, non manda il segnale acustico che avvisa del pericolo della collisione imminente. Torniamo allora a quelle registrazioni audio. Dopo quel confuso ma ed è il segnale in codice di pericolo, si sentono le voci provenienti dalle navi francesi. Poi, d'improvviso, irrompe la voce concitata di Renato Superina, che è, lo ricordo, il comandante dell'Agip Abruzzo. Capitano di Agip Abruzzo! Siamo incendiati! C'è venuta la nave addosso! Una nave ci è venuta addosso, dice il comandante Superina dell'Agip Abruzzo. Ma quando gli chiederanno chi sia la nave investitrice, dirà: sento la Bettolina, quella che ci è venuta addosso. Questo della Bettolina investitrice tornerà. Vedi da fuoco Agip Abruzzo, noi abbiamo il Regal Light, crude oil, però non sappiamo la Bettolina che ci è venuta addosso cosa ha a bordo. Il comandante Superina è sicuro. Molto chiaro il suo messaggio a investire l'Agip Abruzzo è stata una Bettolina, ma la Bettolina è una imbarcazione molto più piccola di un traghetto, all'incirca 60-70 metri di lunghezza contro i 120 della Moby Prince e soprattutto è molto più bassa come un'automobile rispetto a un pullman. E allora com'è possibile confondere un traghetto con una Bettolina? Ma torniamo allora al drammatico appello del comandante dell'Agip Abruzzo. La nave che ci è venuta addosso è incendiata anche lei, però non so dove si trova, non lo so, state attenti che non scambiate lei per noi. Non scambiate lei per noi, dice il comandante dell'Agip. Superina sa che è in fiamme, lo dice lui stesso, l'ha vista dunque. Eppure scongiura i soccorritori di andare da lui, ma i soccorsi sono un capitolo dolente di tutta questa brutta storia. Partono subito due rimorchiatori, una motovedetta della finanza, una della capitaneria, una dei vigili del fuoco. Partono perfino piccole barchette di ormeggiatori. Quello che manca è un comando, un coordinamento. Ognuno fa quel che può di sua iniziativa. Ma chi doveva dare un ordine? Comandante del porto di Livorno è l'ammiraglio Albanese. Alle 23.08.48 si sente sul canale 16 questa comunicazione. Questi qua sta accostare in banchina davanti alla capitaneria per imbarcare il comandante. Il comandante è l'ammiraglio Albanese che appunto si imbarca sulla motovedetta 250 e sparisce in mare. Da quel momento la sua voce non si sentirà mai sul canale di soccorso per dare un ordine. Dove è andato il comandante del porto? Cosa ha fatto in quelle ore drammatiche in cui 140 persone a bordo di un traghetto di linea morivano in acque portuali bruciate vive, asfissiate dal fumo? Perché non ha dato un ordine? Basti per tutte la risposta che il comandante albanese dà alla commissione d'inchiesta ministeriale. L'ufficiale che dalla centrale operativa dava questi mezzi, queste disposizioni. E io assentivo nel senso che era giusto che si facesse così. Sì, il comandante del porto si limita ad ascoltare la radio e non ha di meglio da dire, così sta zitto. Perché nessuno cerca Moby? Non era difficile immaginare che l'unica nave che per rotta e orario poteva trovarsi nel luogo della collisione era proprio Moby Prince. Facile. Eppure nessuno lo cerca. A dir la verità, nessuno non è proprio esatto. Due ormeggiatori, Walter Mattei e Mauro Valli, avvistano il traghetto alla deriva in fiamme. Si avvicinano. Notano il mozzo Bertrand attaccato alla balaustra di poppa. Gli dicono di buttarsi. Bertrand non vuole, ha paura, e al suo primo imbarco il mare è nero come pece, finché, stremato, si butta. Abbiamo raccolto un naufrago! Dice che c'è ancora vettore sulla nave! La voce dell'ormeggiatore è concitata, ma chiara. Il naufrago dice che sulla nave ci sono ancora persone da salvare. Qualche istante dopo lo ripete, ma aggiunge un particolare. Un naufrago l'abbiamo già raccolto. Adesso ci abbiamo una CP di fianco a noi che induca. Una CP è una motovedetta della capitaneria. Le parole degli ormeggiatori sono pesanti come un masso. La CP indugia. Più che un rimprovero sembra un'accusa. In soldoni, lì, su Moby in fiamme si brucia, si muore. E questi non fanno nulla. Andare a poppa della nave, il naufrago ci dice che ci sono ancora dei naufraghi da salvare. I due ormeggiatori continuano a chiedere aiuto, ripetono che secondo il mozzo che hanno appena salvato, il mozzo della Moby Prince, Alessio Bertrand, a bordo del traghetto in fiamme ci sono altre persone da salvare. Ma nessuno si muove, nessuno dà ordini, nessuno interviene. Dalla radio risponde solo il silenzio. Il Moby brucia. Le persone sul traghetto muoiono. E dal comandante del porto non arriva neanche un ordine. Si sente addirittura uno che fischietta. E poi un'imprecazione pesante in dialetto pugliese. Ehi, del Moby, prendetevela nel culo. E l'amaro e tragico commento. Duro come la verità, e a un certo punto i due poveri ormeggiatori sotto il Moby urlano. Ma dalla capitaneria nulla, silenzio. Di nuovo fischiettii macabri, ancora silenzio. Poi qualcosa succede. La CP-232 carica il mozzo infreddolito e intossicato. Ma non si muove. Rimane sul posto per mezz'ora, in silenzio. Poi su canale 16 chiede di poter rientrare in porto perché il mozzo sta male. Permesso accordato. Subito dopo si svolge un'altra conversazione tra capitaneria e l'ormeggiatore che ha salvato Bertrand. Il naufrago ha dichiarato se si è buttato in mare altri oppure no? Il naufrago ha detto tutti morti bruciati. Strano, appena due minuti fa l'ormeggiatore gridava il naufrago dice che ci sono persone da salvare e ora gli fa dire esattamente il contrario. Ma ad un ascolto attento c'è una cosa che non torna. La voce ora è tranquilla, i toni senza più passione, come se l'ormeggiatore tradisse qualcosa, un boccone amaro inghiottito. Vale la pena risentirlo. Questo il tono di 20 minuti prima. Il naufrago ci dice che ci sono ancora dei naufraghi da salvare. Questo dopo che il Bertrand è passato sulla CP-232 rimanendovi mezz'ora. Il naufrago ha detto tutti morti bruciati. Quando la motovedetta chiede il permesso di rientrare in porto, Alessio Bertrand, il mozzo della Moby Prince, è a bordo da circa mezz'ora. Che cosa è successo allora in quella mezz'ora? Perché la motovedetta indugia di fronte al disperato appello dei due ormeggiatori? Eppure Bertrand aveva ragione, a bordo della Moby Prince c'erano delle persone vive da salvare. La conferma viene dall'analisi del sangue eseguita sui cadaveri rinvenuti a bordo del traghetto. Infatti il tasso di monossido di carbonio trovato nel sangue dà la misura del tempo in cui una persona ha inalato il fumo. E in alcuni dei cadaveri della Moby Prince il tasso di monossido nel sangue è superiore addirittura al 90%, il che significa che quelle persone, prima di morire, hanno respirato fumo per ore e ore. Questo è il verbale della deposizione resa il 29 maggio del 1996 dal professor Angelo Fiori, anatomopatologo del Policlinico Gemelli di Roma. Questi dati cosa ci dicono? Che un gruppo di persone non è morto né in mezz'ora e secondo me neppure in un'ora, ma probabilmente erano andati avanti anche per qualche ora. Quello che dice il professor Fiori è chiaro, ma per i periti e per il tribunale su Moby sono tutti morti in pochi minuti. Perché? Ma c'è di nuovo un video la cui verità non si può negare. Rada di Livorno, la mattina dopo la collisione. La Moby è ancora fumante. In lontananza si vede l'Agip Abruzzo ancora in fiamme. Passa un elicottero dei carabinieri. Sono le 7.30 di mattina. La Moby Prince è stata agganciata e viene trainata in porto dai rimorchiatori. L'obiettivo della telecamera scorre la Moby completamente bruciata. La fiancata. La poppa. La poppa. Si scorge qualcosa, una macchia rossa. La macchia rossa è il corpo di un passeggero. È integro, i vestiti è a posto, tutto intorno la nave è completamente bruciata, ma il corpo no. È impossibile. L'unica spiegazione è che l'uomo è arrivato lì dopo le fiamme, probabilmente viene da sotto, dall'interno. È rimasto vivo tutta la notte e poi, quando ha sentito i rumori dei soccorritori, alla luce del giorno ha trovato la forza di salire, uscire sul ponte ancora rovente per farsi vedere. È arrivato fin lì e poi ha perso i sensi. Due ore dopo il Moby, rimorchiato, arriva in porto. Salgono i vigili del fuoco e questo è l'uomo della camicia rossa. Ormai carbonizzato, combusto dal calore delle lamiere. Quell'uomo è arrivato sul ponte della Moby con le proprie gambe. E a questo punto, lo ricordo, siamo al mattino dopo, quindi ad almeno 8 ore dalla collisione tra la Moby Prince e l'Agip Abruzzo. Su quel traghetto, dunque, c'erano delle persone ancora vive che era possibile salvare. Ma perché allora il mozzo ha cambiato improvvisamente la sua versione? E perché il tribunale ignorerà la deposizione del professor Fiori, sostenendo che la maggior parte delle persone a bordo della Moby Prince è morto nel giro di pochi minuti. Ma torniamo a bordo della Moby Prince. Mancano 2 minuti alla collisione. La rada quella sera è un vero porto di mare. Ma il comandante Chessa il porto di Livorno lo conosce bene, sa che ognuno si ancora dove vuole o dove può. E quella sera di navi ce ne sono parecchie, comprese le 2 petroliere e le navi militarizzate americane piene di armi ed esplosivi. Ma cosa ha allarmato il comandante Chessa? Torniamo indietro di 2 minuti, esattamente alle 22:20 e 10 secondi. Nella registrazione del canale 16 ci imbattiamo in un frammento audio. Significa la nave passeggeri. Ora l'unica nave passeggeri in zona a Livorno in quel momento è Moby Prince. Chi segnala la presenza di Moby Prince e a chi? Un altro mistero, insomma. Ma sul canale 16, il canale adibito alle conversazioni radio di emergenza, si trovano anche altre tracce interessanti. Ore 22:25:19. Il frammento è breve e veloce. Proviamo a rallentare. Chi è quella nave? Chiede qualcuno in italiano. Dopo 8 secondi, Moby centrerà in pieno la petroliera. Ma una delle tracce audio più interessanti si può ascoltare alle 22:49:37, circa 24 minuti dopo la collisione tra Moby e la petroliera. Il messaggio è in inglese. Qui è Teresa a nave 1 in rada a Livorno. Me ne vado. Teresa è sicuramente un nome in codice perché dopo ricerche non risulta nessuna nave Teresa che incrociava nel Tirreno in quei giorni. Dunque una nave non identificata che si rivolge a nave 1, altro nome di nave chiaramente in codice. Chi era nave 1? Chi era Teresa che dopo la collisione parte in tutta fretta senza neppure attendere risposta? Quella sera in rada c'è un gran traffico ingiustificato e inspiegato di navi senza volto e senza identità, ma viste, reali e concrete, rintracciate da alcune registrazioni radar e da alcune testimonianze. C'è la traccia, ma proprio la traccia di un'imbarcazione che procede ad elevata velocità in direzione 67 gradi, che è una rotta di potenziale collisione rispetto alle navi in uscita dal porto quella sera. Poi questa traccia si perde. E ci sono altri ricordi, testimonianze portate in sede di processo, c'è quella di Walter Mattei, un ormeggiatore e colui che salva Alessio Bertrand, il mozzo sopravvissuto dalla Moby Prince. Ecco, Mattei ricorda, lo dice al processo, che c'era accanto all'Agip Abruzzo in fiamme una chiatta, una strana imbarcazione bassa completamente illuminata di rosso, ferma e immobile, come per non farsi notare dall'imbarcazione dei soccorritori che intanto arrivavano. E poi la testimonianza dell'ingegner Pompidio, il capo macchine della petroliera dell'Agip Abruzzo, che dopo la collisione vede sfilare a poca distanza dalla petroliera un grande peschereccio d'altura, un peschereccio in fiamme, un peschereccio bianco. E poi ancora l'equipaggio del rimorchiatore Tito Neri II, che mentre cerca di raggiungere in rada la petroliera in fiamme, viene quasi investito da un peschereccio bianco che gli taglia la strada e scappa. Anche questa è una cosa curiosa, dove avviene un incidente le imbarcazioni accorrono per prestare soccorso. Invece quella sera, nel punto in cui Moby Prince collide contro la petroliera, ci sono numerose, troppe imbarcazioni in fuga, imbarcazioni senza nome. Ma quella sera, in rada a Livorno, al momento della collisione di misterioso e non identificato, non c'erano solo le navi. A un certo punto, lì sopra, c'era l'elicottero. Io ho detto l'unica cosa di Santa Maria, non le posso dire, ho detto anche al magistrato, se veniva di sicuramente non veniva da terra, nel senso non è che ha attraversato sopra le nostre teste andando verso il mare e nemmeno, capito, venendo dalle nostre spalle. Niente, quello noi si è visto che a un certo punto era lì sopra vicino, questa è la nave e lui era qui. Elicottero che viene visto anche da un militare di guardia all'Accademia Navale, Massimo Vernace. Mi sembra che dopo circa mezz'ora dalla collisione sia passato un elicottero. E di elicottero parla anche l'avvisatore del porto, Romeo Ricci. Io non so che tipo di elicottero fosse, però qualcosa c'era, si sentiva proprio il rombo, perché quando passa qui è una struttura che vibra molto, e c'era. L'inchiesta accerterà che nessun elicottero italiano ha sorvolato la zona del disastro della Moby Prince, e allora... Chi era quell'elicottero? Ma c'è ancora un altro documento che vi vogliamo